Quel che fatta a me, stom t'avesse accisa, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra, femmine come a te, non c'hanno sta panoma onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, che sto che fatta chiagnere, lacrime famità. Femmina, se tu peggi una vipera, m'indussagate l'anima, non posso più campare. Femmina, sei dolce come lo zucchero, però sta faccia d'angelo te serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, te voglio bene e t'odio, non te posso scordare.